Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua, benvenuti a tutti, questa è Blu Radio Veneto, siete proprio capitati all'interno di Blu Radio Sera. Buona serata a tutti da parte di Flavio Bilato e di Maurizio Cazzavara dall'altra parte del vetro, assieme all'ospite di questa sera, di questo martedì 15 marzo del 2011. Diamo il benvenuto a Giuseppe Festa, ciao. Leader della band Lingalad. Ciao Giuseppe, ciao. Fatto buon viaggio? Sì, un buon viaggio. Ecco, okay. Bene, arrivi da quel di Bergamo, Giuseppe. Sì, esatto. E cosa ci hai portato? Vi ho portato una chitarra. Sì. Vabbè, poi mia moglie mi sono portato. Sì, certo. Ecco. Poi... però radiofonicamente più importante la chitarra. Beh, certo, radiofonicamente la chitarra, però voglio dire, è la radio che si può anche vedere in questa serata. Possiamo dire ai nostri ascoltatori di poter entrare in internet, oltre che ascoltare la trasmissione, per vedere il volto di Giuseppe Festa e per vedere anche il volto della moglie. Certo. Si può fare, nonché quello di Maurizio Cazzavara, meno grazioso, ma pur sempre, purtroppo. Pur sempre presente, anzi un'icona. La prossima volta cercheremo di fare un busto in gesso, ecco, per sì. Farti per farti comparire meno, Maurizio, no, sempre i soliti scherzetti. Comunque diretta rockwave.tk, questo è l'indirizzo per poter vedere anche le nostre webcam, chi inquadrano e quando. Benissimo, allora Giuseppe Festa, per presentare un gruppo davvero curioso, un gruppo, oserei dire, fantasy, no, anzi, assolutamente, una musica folk, pop, però collegata molto alla fantasia. Sì. Vogliamo capire il perché, innanzitutto il nome del gruppo, allora, Lingalad. Il nome deriva da un linguaggio elfico, creato da Tolkien, sì. Che è un po' il maestro del fantasy, in effetti. Quindi facciamo riferimento a quel grande scrittore che ha scritto Il Signore degli Anelli e Lo Hobbit, ecco, esatto. sì. E significa il canto degli alberi. Quindi noi siamo partiti da questa idea. Lingalad è anche il nome, tra l'altro, di un personaggio, il personaggio guida del nostro primo album, che è diciamo un uomo alla ricerca di se stesso, che compie un viaggio in mezzo, diciamo, a foreste sterminate e a un certo punto comincia a capire e ad interpretare il linguaggio degli alberi, che rappresenta un po' il linguaggio della natura, e lo traduce in musica per gli uomini. Quindi questo è un po' l'inizio, da dove parte il nostro progetto. Un progetto che si intitola La Locanda del Vento, ed è proprio il vento spirando tra gli alberi che crea questa musicalità e quindi li fa parlare, diciamo. Esatto, La Locanda è un po' il punto d'arrivo, diciamo, del nostro percorso, che è iniziato più di 10 anni fa con il CD dedicato alle poesie di Tolkien, e in particolar modo diciamo ai canti che ci sono nel libro Il Signore degli Anelli. E poi attraverso altri lavori, magari di cui parleremo durante questa chiacchierata, arriva La Locanda. Quindi La Locanda è un po' La Locanda del Vento è il nome del nostro ultimo album, il nostro ultimo CD, e racconta delle storie che abbiamo raccolto nella vita reale, quindi non più legate soltanto a un discorso di fantastico, ma vere. Cioè, da Tolkien, dalle voci della Terra di Mezzo, il primo disco praticamente assolutamente autoprodotto da te, in soldoni praticamente. Sì, perché il primo album, nonostante io già conoscessi gli altri membri del gruppo, perché comunque suoniamo insieme da quando andavamo a scuola, sì. Però è stato un lavoro solista. Certo. Dopodiché, lentamente, quando hanno capito che si poteva andare in giro, soprattutto fare delle grandi mangiate hobbit, come si dice. Esatto. Poi ci spiegherai, allora... magari ci sono dei menù un po'... menù particolare, menù della Terra di Mezzo, molto particolari. Molto buono. Si sono aggregati, giustamente, anzi ho chiesto io di aggregarsi a questo progetto, e così è nato poi il gruppo Lingalad, e poi insomma siamo tolti qualche soddisfazione insieme. Che cibo e musica vanno sempre d'accordo. Altro che... Ecco, è arrivata la nostra fotografa, eccola qua, è Chiara. La mettiamo nella Terra di Mezzo, esatto. Per il momento. Quindi, ecco. Allora, sì, si parlava di menù, allora affrontiamo più tardi. Il menù questo... più tardi. Poi diciamo una cena hobbit prima di cantare. No. È successo una volta. Adesso vi racconto questo piccolo. Sì, certo. Tanto siamo tra noi, no? Sì, certo. Esatto. Non c'è nessuno che ti ascolta. dei ristoratori, sì, sul lago di Iseo, hanno, tra l'altro il ristorante, non voglio fare pubblicità, però è particolare perché si chiama Il Cacciatore, noi tra l'altro siamo anti caccia, anti tutto, sì, no? E quindi loro per la serata l'hanno chiamato Il Cacciatore di Orchi, e hanno organizzato questa cena Hobbit, quindi hanno, diciamo, seguito delle ricette particolari e ci hanno invitato per poi fare un concerto. Disgraziatamente ce l'hanno fatto fare dopo cena ed è stata una cosa veramente... Dai, è stato qua, ha mangiato qualcosa. Mamma mia. Immagino che pesanti si va bene per ascoltare, no? Esatto. Forse poi vabbè. Allora, stiamo parlando con Giuseppe Festa per presentare quello che è il suo gruppo Lingalad e soprattutto in questa serata il nuovo lavoro che si intitola La Locanda del Vento. Allora, direi, per continuare a commentarla insieme, ascoltiamo subito un pezzo dal disco e poi naturalmente torniamo a commentarlo insieme. Che traccia abbiamo scelto, Maurizio? Mi pare, Giuseppe, che tu abbia scelto la traccia numero... Allora, se non sbaglio, Tony il Matto. Cioè, che la traccia numero, te lo ricordi? 4. A me risultava il mio nome, la traccia numero 5. Perfetto. Però... mettiamo quella là, che è molto bella. Sì. Volevo vedere se avevate lo stesso copione mio, ma in realtà... Blu Radio Sera e Rockaway... Capita questo, certo. C'è il cambiamento delle tracce, c'è poco da fare. Sì. In caso adesso mettiamo la traccia che abbiamo. C'erano tracce anche con gli elfi, con esatto. Okay. Quindi, voglio dire, vuoi che non ci siano qua. Benissimo, allora all'interno della programmazione serale di Blu Radio Veneto ascoltiamo questo primo pezzo dei Lingalad dalla Locanda del Vento, si intitola Il Mio Nome. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Salgo le scale della locanda che ti ha visto bambina. La tua stanza invecchiata mi accoglie, ma dietro ad un quadro caduto i miei occhi si fermano su qualcosa che ho visto. Resto in silenzio e senza fiato sul tuo letto immobile. Guardo quel muro inciso, è chiaro, ora leggo il mio nome. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Allora, il primo pezzo per conoscere meglio Lingalad si intitola Il mio nome, il brano che ci siamo ascoltati, il lavoro molto importante, molto bello, La locanda del vento. E in questa serata abbiamo con noi Giuseppe Festa, leader del gruppo Lingalad, per presentarci e farci capire qualcosa di più del gruppo. Innanzitutto, Giuseppe, il mio nome è riferito a un personaggio di fantasia o è riferito al tuo nome? Allora, in questo album ci sono delle storie vere che abbiamo raccolto. Ci sono anche delle storie autobiografiche. Pensiamo a Lio, per esempio. La storia di Lio è la storia di un uomo, di uno scalatore, che ha deciso di abbandonare, diciamo, queste scalate perché ormai, diciamo, era diventato troppo pericoloso. Aveva una moglie e quattro figli. Però era innamorato della montagna e quindi decise di fare l'ultima scalata. Salutò la moglie e disse, le promise che quella sarebbe stata l'ultima scalata, e purtroppo lo fu davvero, perché morì nell'ultima ascesa al monte. E quella è la storia del nonno di Giorgio, il nostro batterista, quindi l'abbiamo presa proprio dalle nostre storie familiari. Altre, come quella del mio nome, è la storia di un ragazzo del secolo scorso, innamorato della figlia del locandiere, e che non aveva coraggio di farsi avanti. Partì per oltre il mare, diciamo, a cercare fortuna, e tornò in questo villaggio dopo più di 30 anni e trovò tutto, appunto, abbandonato, e anche la locanda era semidistrutta. Salì le scale, come avete sentito, e appunto su questo muro, dietro un quadro, trovò inciso il suo nome. Quindi, insomma, un po' il messaggio è: quando bisogna prendere la palla al balzo, no? Bisogna... Sì, certo, ha aspettato 30 anni per sapere che anche lei stava aspettando. Esatto. E tra altre cose, all'interno del tuo CD, del CD di Lingalad, ci sono anche dei disegni che raccontano molto bene quelle che sono le canzoni che poi vai a narrare, vai a raccontare. Tra altre cose, appunto, parlando di Lio, c'è proprio questo scalatore, questa figura che guarda verso la montagna, ed è proprio il senso di dire: aspetta, mi sto arrivando, non ti abbandonerò mai più. Esatto, proprio esatto. Quello. Il lavoro grafico è stato fatto da un'artista che si chiama Alessandra Simonini, molto brava, che ha fatto questi disegni a matita sul legno. Quindi l'idea è proprio quella di avere un prodotto che sia vivo anche. Gli originali li tieni gelosamente custoditi a casa, immagino. Sono appesi in casa nostra. Ah, vedi. Giuseppe, citiamo anche, tu hai citato il batterista, anche gli altri componenti della band. Allora sì, Giorgio Parato, il batterista, che tra l'altro nel brano che abbiamo appena ascoltato ha suonato anche il pianoforte. E poi ci sono gli altri elementi: Fabio Ardizzone al basso, Luca Pierpaoli alla chitarra, e poi c'è Claudio Morlotti, che è un po' il polistrumentista, quindi insomma suona un po' di tutti gli strumenti a corde esistenti in questo mondo, anche quelli che noi non conoscevamo praticamente. Ogni tanto salta fuori con questi... Il problema è quando si va all'estero, soprattutto, quindi in aereo. Allora lui ha iniziato così, portandosi 4, 5, 6 strumenti, e ultimamente forse per lui porterebbe l'armonica a bocca e basta. Invecchiando, comincia a dire: ma forse questa volta la chitarra, porto solo il buzuki, sempre gli strumenti più piccoli ha cominciato a portare. Diventa un po' pigro. Esatto. Vabbè, col tempo. Col tempo. Vabbè. Ritornando un momento, scusami Flavio, sì, al pezzo che abbiamo sentito prima. Noi nella recensione, nella redazione della radio, anche Alberto Prisco, il nostro direttore artistico che salutiamo, che grazie alla sua cocciutaggine siete venuti qua stasera, parlavamo di Progressive, questo piano che amplia, che praticamente porta a un pezzettino di Progressive, a questa idea di Progressive più che al pezzo, secondo me. Cosa dici, Giuseppe? Sì, cioè, ce l'hanno detto in molti, poi soprattutto Donato Zoppo, che è un giornalista musicale che ha curato anche la biografia dei Lingalad, che è uscita qualche anno fa, e quindi, ed è un grande appassionato di Progressive. Lui ci ha sempre individuato quest'anima. In effetti non nasce da una cultura personale, almeno io parlo personalmente, ma penso di poter parlare anche per gli altri del gruppo, non nasce da una cultura personale progressive, sì, cioè non abbiamo un background sia suonato che ascoltato, però fatto sta che hanno trovato queste similitudini, cioè, e quindi... È bella, una bella similitudine, perché il piano iniziale del mio nome è bellissimo, dà un certo senso alle cose. E infatti, tra l'altro, abbiamo deciso anche di riproporlo alla fine in una versione strumentale. È vero, è vero. Perché effettivamente meritava. La traccia numero 15 è proprio il mio nome nella versione strumentale. Esatto, per piano e flauto. Allora, visto che non sei qua da solo, ma oltre la tua signora moglie, che salutiamo, torniamo, ci dici il suo nome? Sara. Ecco qua, salutiamo anche Sara, che è munita di cuffie, sta ascoltando anche lei Blu Radio Veneto, quindi benvenuta in frequenza, Sara. Che tra l'altro sì, ha partecipato con una seconda voce a un brano, però adesso non lo farà mai perché... No, ma casomai abbiamo un microfono. No, ha già detto io. Ha cambiato colore, Bordeaux, adesso è sul paonazzo. Sì. Ok, sta ritornando. No, non sta ritornando, niente. Niente, tra poco. Il tempo di ascoltare una canzone, allora, visto che tu, appunto, oltre a moglie Sara, hai portato anche la chitarra, direi che è giunto il momento di... Sì, di usarla. Allora, faccio un brano del nostro album precedente, che è Lo spirito delle foglie, e si intitola Seguo il sole, e narra di un viaggio fatto nelle terre del nord, un viaggio molto importante. Sale il sole, ma questa vita mia sembra più buia e vuota, si perde, vola via, finta gloria che già mi sfugge se perdo i miei passi, adesso le tracce. Seguirò il mio sangue, scorrerà sotto cieli tersi, sai, lunghe ombre su di noi. Seguo sole, seguo sole. Schiume che danzano per me stanno chiamando, adesso le senti, voglio me, e corre verso est la sorella tua, pallido viso la luna che forse dorme già. Il mio sangue scorrerà sotto cieli tersi, sai, lunghe ombre su di noi. Seguo sole, seguo sole, seguo sole, seguo il sole, seguo sole, seguo il sole. Sì, seguiamo il sole, allora, praticamente. Anche se la giornata, direi, vero, so, no, il sole è fondamentale. È dentro di noi, diciamo. È sempre dentro di noi. E questa è la locanda del vento, il vento che ispira le storie, che modella le storie, la quotidianità. In questo caso era un pezzo dallo spirito delle foglie. Esatto. Scritto quanto tempo fa? Quanto tempo prima di questo tuo ultimo lavoro? Nel 2005. Ah, quindi sono passati 5 anni per, diciamo, riconsiderare un po' anche quella che è l'attività Lingalat. Sì, perché siamo convinti che bisogna avere qualcosa da raccontare. Certo. Perché purtroppo, diciamo, spesso capita che si è costretti, diciamo, magari a uscire con dei lavori con un tempo molto serrato per passione, e poi si finisce per non dire nulla. Quindi abbiamo aspettato di raccogliere un po' di storie che ci convincessero, e poi abbiamo composto la locanda, che è un lavoro rispetto a quelli del passato molto più corale nel gruppo. Quindi il progetto Lingalat, che è nato appunto come un progetto solista mio, si è poi andato arricchendo non solo della presenza degli altri, ma anche dell'apporto degli altri dal punto di vista proprio progettuale e compositivo. Bene, tra altre cose, per conoscere qualcosa di più anche del lavoro di Lingalat, c'è anche un sito molto semplice ma allo stesso tempo molto chiaro su quelle che sono le vostre proposte, perché in alcuni casi si possono anche ascoltare delle anteprime dei vostri lavori. Esatto, www.lingalat.it, e lì trovate un po' tutto quello che abbiamo fatto, anche molte foto di viaggi, piuttosto che le novità, i concerti. Diciamo anche i vostri viaggi all'estero, la vostra produzione all'estero, che è molto importante. Citiamo anche la Priscilla. Citiamo la Priscilla, Tolkien. Ah, sì. Citiamo. Proprio lei. Perché la signora degli anelli. La signora degli anelli. Sì. Allora, la signorina degli anelli. Signorina, perché sì, nonostante ormai abbia, penso, superato gli 80 anni, esatto, però sì, ama farsi chiamare appunto signorina Priscilla Tolkien, che è la figlia di Tolkien. E dobbiamo tanto a lei, perché alla fine il progetto Voci dalla Terra di Mezzo e anche la stessa realizzazione del primo CD è nato semplicemente per essere condiviso con gli amici, diciamo la verità. Quindi non c'era nessun tipo di velleità, erano canzoni fatte, pensate per essere suonati accanto al fuoco. Poi un caro amico napoletano, Francesco Fiorentino, che saluto se ci sta ascoltando in streaming, mi ha convinto a mettere su CD, diciamo, questi pezzi. Poi io, che diciamo ero assolutamente a digiuno per quanto riguarda internet, non avevo neanche pensato a fare un sito, era il 99. Se non che due amici ci hanno regalato questo sito internet e hanno cominciato ad arrivare delle email anche da altre parti, diciamo, d'Europa. E io mi sono anche un po' preoccupato, perché nel CD avevamo utilizzato alcune parti dei testi originali di Tolkien, seppure tradotti in italiano. Certo. E allora mi sono detto, ma perché non mandare il CD alla Tolkien Society a Oxford per vedere se ci danno i diritti anche in modo ufficiale? Ecco, il problema è che là è arrivato il CD, però gli arguti avvocati, diciamo, londinesi hanno visto, cioè ci hanno risposto: voi ci chiedete l'autorizzazione di fare il CD e ci mandate il CD già fatto in celofanato. Quindi non se ne parla, anche perché verrà realizzato il film, per cui c'è un problema di moratoria, insomma, così. E quindi niente, ci hanno vietato di fare qualsiasi cosa se non proprio suonarlo davanti al fuoco. Vabbè, non importa. Fatto sta che qualche mese dopo arrivò al mio indirizzo di casa una lettera in formato Hobbit, perché era veramente una lettera minuscola, che ovviamente anche quella è appesa, ecco, in casa, è firmata Priscilla Tolkien, scritta tra l'altro con una macchina da scrivere, quindi proprio... Come usava suo papà. Come usava suo papà, esattamente. Le vecchie Remington. Penso proprio di sì. Proprio sì. Così. E in questa lettera lei, innanzitutto, la cosa più assurda, si scusa per non averla mandata prima la lettera, no? Come se... vabbè. E adducendo come scusa il fatto che lei non è in possesso di un lettore CD. E quindi un suo nipotino ha dovuto mettergli su un'audiocassetta, pensavo addirittura al vinile, perché pensavo lì in questa, mi immaginavo in questa casa con le finestre tonde, nella campagna. Tanto passa qualche fata volando. Esatto. E quindi niente, ha ascoltato questo CD, sì, e ha avuto veramente il buon cuore di scrivere questa lettera, che è stata per noi una soddisfazione immensa, ma veramente grande. E dopo, non sappiamo se per sua intercessione, noi pensiamo di sì, ci è arrivato anche il permesso per poter utilizzare queste musiche, questi testi, diciamo. E da lì poi sono nate tante cose, perché appunto la visibilità poi su internet ci ha permesso di essere notati da un giornalista americano che ha scritto un articolo su una rivista, diciamo, di musicale in America. E quella rivista, come si dice, no? Tutte le strade. Questa rivista, appunto, è stata letta dall'organizzatore della prima mondiale del film, che ci ha voluto suonare là. Una cosa meravigliosa. E quindi noi siamo partiti, tra l'altro, con l'idea di andare così, cioè, di essere messi in un sottoscala, perché ho detto, vabbè, vorranno i menestrelli così esotici, no? Quindi il gruppo italiano che arriva. E invece devo dire che l'accoglienza che abbiamo avuto là è stata una cosa imprevista, soprattutto vista l'accoglienza che invece, cioè la nuova accoglienza in Italia, l'attenzione, no? E quindi là abbiamo conosciuto gli attori del film, abbiamo mangiato insieme, robe incredibili, e abbiamo avuto diciamo l'occasione di suonare 7 brani proprio prima della proiezione del film. E questo poi, come spesso succede, ci ha permesso di avere degli articoli dei giornali anche in Italia. Infatti poi il Corriere della Sera ha già scritto un grosso articolo, e da lì in Italia è veramente partito il nostro progetto, perché poi appunto questo articolo di Matteo Speroni ci ha dato molta visibilità e via. Quindi certo. Ringraziamo la Priscilla sempre, allora. Ringraziamo assolutamente la Priscilla. Prossimo disco dedicato solo ed esclusivamente a lei, tipo Il Bosco di Priscilla o qualcosa del genere. Vabbè, allora continuiamo ad ascoltare la musica di Lingalad dalla Locanda del Vento. Abbiamo questa volta da ospitare all'interno delle nostre orecchie i Boschi di Luna. Allora, i Boschi della Luna, sì, esatto. Boschi della Luna, sì. Allora, è un brano musicale, ma con una voce narrante, e la voce è di Gianni Musi. Poi l'ascoltiamo, poi magari gli ascoltatori capiranno un po', perché è una voce molto conosciuta, e poi svegliamo anche, insomma, chi è. Perfetto. Blu Radio Sera. Una via nascosta si addentra in profondità nella foresta, seguendo una pista tortuosa fino al valico. Oltre il passo si apre una piccola valle coperta da enormi alberi e punteggiata di radure. È un luogo del quale gli abitanti della valle sembrano essersi dimenticati. Un tempo quelle selve venivano chiamate i Boschi della Luna. I padri dei padri di mio nonno hanno rispettato e amato quei luoghi fin dalle epoche lontane. Non credo esista ancora al mondo un luogo come quello. Le leggende narrano che la foresta sia la dimora di spiriti delle selve, creature misteriose, invisibili alla maggior parte degli uomini. Ma tu credi a questi spiriti? Pensi veramente che siano creature reali, in carne ed ossa? Per prima cosa vorrei capire cosa tu intendi per reale. Se pensi che esista solo ciò che si vede o si tocca, allora sarò io a porti una domanda. Tu definiresti reali le emozioni che provi? Direi di sì. E le tue emozioni, i sentimenti, li puoi vedere con gli occhi o toccare con le mani? No. Eppure esistono. E sono talmente tangibili da condizionare tutta la tua vita, non è così? Credo che la stessa cosa si possa dire degli spiriti dei boschi. Il fatto che tu non li possa vedere o toccare non ne diminuisce il valore, e anche se fossero solo il frutto della nostra immaginazione, che importa? L'idea che essi vivano in questi boschi mi dona emozioni profonde. A volte mi sembra di udire la loro voce nel respiro del vento o nel mormorio del ruscello. È allora che ai miei occhi questi spiriti diventano tanto reali quanto la roccia alla quale sono appoggiato ora. Essi vivono dentro di me. Ricorda, proteggere la foresta significa proteggere anche una parte di noi stessi, la più profonda e preziosa. Ricorda. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Eccolo qua, un pezzo davvero particolare, I Boschi della Luna, con questa voce narrante così, così forte, si può dire, perché resta quello che dice sì. Il personaggio. Vogliamo ricordarlo chi è? Sì, allora, Gianni Musi, il maestro Gianni Musi, che è un attore di teatro molto, molto importante e anche un doppiatore. La maggior parte di persone lo conoscono proprio come doppiatore, vabbè, la voce di Gandalf nel Signore degli Anelli, piuttosto che, vabbè, nella sua vita ha doppiato da Sean Connery a Marlon Brando, Marco Aurelio nel Gladiatore, insomma, e poi mi ricordavano dalla regia anche che ha partecipato allo sceneggiato La Freccia Nera, Coloretta Goggi, ti ricordi? Ancora quel tempo? Certamente. Cioè, avrò avuto 8 anni. Io ne avevo un pochettino di più di te. Sì, però. No, difatti tu ricordi meglio di me le cose. Io non ricordavo assolutamente di Loretta Goggi, ma ora che me lo dici... Loretta Goggi, c'era anche Gianni Musi, sì. Me lo ricordo, non ricordo la parte che faceva, ma ricordo che faceva parte del cast dello sceneggiato. Bene, sì. Adesso approfondiremo, magari prossima puntata parleremo anche della Freccia Nera. Ecco. Esatto. Vabbè, ma torniamo a parlare di Lingalad. Di questo lavoro, La Locanda del Vento, sempre all'interno del vostro sito, che a me piace molto perché è semplice ma rende molto. Ci sono anche gli altri dischi che voi avete fatto nel vostro diciamo passaggio musicale. E ce ne sono alcune, ad esempio Voci dalla Terra di Mezzo. Allora, Voci dalla Terra di Mezzo è il primo, diciamo, quindi è quello dedicato a Tolkien. Poi ce n'è un altro, Lingalad in concerto, è una versione appunto live di Voci dalla Terra di Mezzo. E poi c'è lo Spirito delle Foglie il Canto degli Alberi. Il sì. Canto degli Alberi è un lavoro un po' particolare, è un lavoro strumentale dedicato alla magia del Parco Nazionale d'Abruzzo, un luogo al quale noi siamo molto, molto legati, soprattutto io e il bassista Fabio, che abbiamo un passato comune di naturalisti. Quindi, con l'università avevamo fatto un periodo di volontariato al Parco Nazionale d'Abruzzo e lì veramente ci ha cambiato molto. C'è l'orso Bruno da quelle parti, vero? Certo. Sì, sì, fantastico. Sì. L'orso Bruno marsicano. Marsicano, sì. Tra l'altro non è messo benissimo come specie, per cui insomma bisogna cercare di avere un po' più di rispetto per questi pachidermi, per queste creature che sono veramente magiche in un certo senso. Bene, benissimo. Giuseppe mi ha raccontato un episodio, brevemente adesso lo racconti, dei suoi viaggi che ha fatto. È andato anche in Polonia, oltre a New York, come ha detto prima. In Polonia cosa hai trovato, Giuseppe? Allora, no, spesso, perché ovviamente quando ci fanno delle domande sui nostri viaggi, ci chiedono com'è stato il concerto a New York, a Toronto, in Inghilterra, ma il problema è che di quei concerti noi non ricordiamo praticamente nulla, perché quello che veramente ci ha colpito in maniera incredibile è stato più che il concerto, il viaggio in Polonia, che è stato all'inizio del nostro progetto, quindi era il 2001, credo, e la Polonia era diversa da quella di adesso, in pochissimi anni è cambiata tanto. E lì c'era una manifestazione che si chiamava Talk Folk, e proprio dedicata a Tolkien. E lì gli organizzatori ci hanno chiamato a suonare dall'Italia. Quindi siamo arrivati con l'aereo a Praga, non in Polonia, ma sul confine, e lì ci è venuto a prendere l'organizzatore con una vecchia Mercedes, con l'interprete, e noi avevamo gli strumenti, eravamo in tre ai tempi, e niente, dovevamo starci in macchina, quindi noi tre dietro, con gli strumenti tutti sulle ginocchia, e abbiamo detto, vabbè, quanto dista? 300 chilometri. Beh no. Vabbè. Sì. No, mi fa, ma io vado veloce, per cui I go very fast. Ok, quindi partiamo, i primi 200 chilometri fino al confine, li avrà fatti a 180 chilometri all'ora, dopodiché in territorio polacco, strade di campagna, di montagna, penso 4 ore per fare 100 km, siamo arrivati distrutti, ma è stata comunque un'avventura, e quello è stato solo l'inizio. Per esempio, ci hanno portato loro ci hanno detto nell'hotel, noi ci accontentiamo anche di una stalla da buoni hobbit, eravamo nella casa di uno praticamente che ci ha portato due pomodorini e un pezzo di pane da mangiare. Noi eravamo scannati dalla fame, perché poi tra l'altro, voglio dire, mangiamo anche e niente, siamo rimasti così un po' delusi. Siamo usciti in strada, in questa periferia di questo paese Bielawa, circondati dai boschi tra l'altro, bellissimo il posto. E in questa stradina a un certo punto, scusate se mi dilungo, ditemelo, però secondo me merita, perché e a un certo punto arriva da lontano, vediamo una 126, perché al tempo giravano tutte queste macchine da loro, si ferma questo tipo qua, abbassa il finestrino, ci dice qualcosa in polacco e ci fa segno di entrare in macchina. Ovviamente noi, ma che stiamo scherzando, chi è questo, eccetera, eccetera. È bastato facesse il segno della birra, no, così, beviamo, venite, che subito diciamo, ci siamo fiondati, ci ha portato in un pub, ci ha offerto da bere, poi ci ha lasciato lì, tra l'altro, ci siamo trovati a piedi. Ma la cosa particolare è che questo pub era appunto l'ultima casa prima del bosco. Fuori c'era un torrente con un acquitrino, una fotovoltaica, una foto elettrica, e due o tre personaggi che pescavano. Ma erano le 10-11 di sera, Entriamo, prendiamo sta birra, dopo 5 minuti vediamo uno di questi che entra correndo con una trota, sarà stata di un chilo, ancora viva, che la consegna al barista, che praticamente la mette direttamente sulla griglia. Fantastico. Quindi noi ci siamo rimasti affascinati da questa cosa e abbiamo, anche noi, che caspita. Allora gli abbiamo fatto vedere 10 euro, perché non avevamo ancora cambiato, lì poi non c'erano, adesso non so adesso, ma penso che non ci siano ancora gli euro. Beh, insomma, ci sono adesso, in Polonia sì. Lui guardò questi euro, li piegò e me li rimise in tasca, ma non disse nulla, no? Quindi noi non capimmo se dovevamo mettere le pive nel sacco oppure... Allora beh, ci siamo seduti e dopo un po' è arrivato con le tre trote più buone della nostra vita. Vedi. E non volle neanche niente praticamente, incredibile. Dopo tornammo la sera dopo il concerto a far bisboccia e lì saldammo il nostro conto, come si dice. Vedi la cordialità a volte. Quindi. E per questo voi avete scritto anche un pezzo, immagino. No, però, state ancora pensando. No, però abbiamo Fabio l'ha ricordato nella biografia curata da Donato Zoppo, sì. Che contiene anche poi ovviamente degli aneddoti dei nostri viaggi, altrimenti sarebbe una palla mostruosa, cioè 200 pagine di descrizioni diciamo musicali. E quindi insomma viene ricordata abbondantemente questa avventura. Bene, una allora cosa bellissima. Ricordiamo ancora una volta i nostri ascoltatori che stiamo parlando con Giuseppe Festa, leader del gruppo Lingalad, per presentarci il suo nuovo lavoro che si intitola La Locanda del Vento. E a questo punto, visto che hai la chitarra, Giuseppe, un altro bel pezzo per noi? Sì, allora io direi farei un brano proprio della locanda, che si intitola Gli occhi di Greta. Bellissimo, bellissimo. Che noi abbiamo scelto per un mese consecutivo, tra l'altro. E narra di una anziana signora che vede come nessun altro sa vedere. Non dico di più, così almeno magari non brucio la sorpresa. Scendo in paese nelle sere d'estate, mi piace bussare alla porta di Greta. L'anziana signora si siede con calma e chiede notizie del bosco e la valle. Io appoggio la schiena al muretto di pietra che lieve ricambia il regalo del sole, e mi perdo tra storie di cose e di mondi che così solo Creta mi sa raccontare. L'odore di acqua annusato nel vento e il morbido muschio che accarezza le mani, la ghiaia pungente sotto i piedi nudi, il vociare di rane e il battere d'ali, la paglia dopo un salto giù dal fienile, il sapore di dolcissimi grappoli al sole, una piuma che corre fra le sue dita, questo vedono gli occhi di Creta. Come il vento che rapido spegne il suo canto, qualche volta anche Creta si ferma a pensare. L'accompagno negli attimi senza parole e aspetto la brezza che torni a soffiare. La mia amica Creta è cieca da quando lanciò il primo pianto, non senza ragione, ma ormai son convinto che in fondo a quegli occhi il buio sia solo per me una prigione. Profumo di timo sull'alta radura, le rondini intorno alla chiesa d'aprile, la fredda neve fra le sue mani, la pioggia che bagna ginocchia bambine, l'odore di legna che brucia nel fuoco, il cuore che batte e una lacrima dolce, l'amore di un uomo che le fu accanto, questo vedono gli occhi di Creta. Gli occhi di Creta, gli occhi di Creta. Ed eccola qua, questa storia così, così intensa per raccontare gli occhi di Creta, un po' di tristezza ma un po' di sicurezza, di sicurezza, perché anche se non si può vedere, voglio dire, c'è un qualcosa che può sostituire in una maniera molto forte. Assolutamente, assolutamente. Tra l'altro è una cosa che sperimento anche in un'attività che poi è la mia attività principale oltre alla musica, che è quella di educatore ambientale. Facciamo molte attività appunto sensoriali con i bambini e spesso ne facciamo alcune in cui vengono bendati proprio per acuire gli altri sensi e le loro riflessioni, o comunque quello che emerge dopo queste attività è veramente molto bello e profondo. Quindi diciamo anche una mancanza momentanea della vista può farci capire quanto poi i nostri sensi ci aiutino a percepire il mondo che ci circonda. Certo, quindi immaginiamoci sì. Per una persona appunto che nasce senza vista, quindi che ha acuito al massimo appunto proprio questa sua sensibilità. Questo è il vostro quinto album praticamente, ed è importante perché si sdogana dal discorso dell'autoprodotto per accedere a un'etichetta, tra l'altro trevigiana, la Lizard Record, di esatto. Loris Furlan, che è un musicista che riesce a contagiare i suoi artisti con una grande capacità. È così, Giuseppe? Sì, è così, veramente. Noi l'abbiamo conosciuto qualche anno fa e abbiamo apprezzato appunto le sue critiche e i suoi giudizi sul nostro progetto. E appunto ci disse che se un giorno diciamo avessimo voluto fare qualcosa non di autoprodotto, lui sarebbe stato disponibile, e con la Locanda abbiamo proprio deciso di affidarci a lui proprio perché ci ha dato questa tranquillità anche dal punto di vista artistico. È una persona molto attenta che però non mette paletti agli artisti, e poi a lui dobbiamo anche l'incontro con Davide Camerin, che è un artista molto bravo, sì, della scuderia della Lizard Record, che è venuto a suonare qualche anno fa da noi. Dobbiamo studiare una cosa: la Lizard Record produce dei dischi molto particolari, molto ricercati, e David Camerì forse è uno dei, degli artisti più importanti dell'etichetta, e ha fatto un grande duetto Flavio assieme a Giuseppe, assieme alla band chiaramente. Sì, sì, certo. Sì. Infatti ha interpretato un brano che si intitola Tony il Matto, anzi se poi vogliamo ascoltarlo proprio con la sua voce merita veramente, perché ha fatto un'interpretazione molto profonda, molto sentita. Lui ha questo tipo di voce molto profonda appunto, e anche un po' teatrale, no? E ha interpretato questo ruolo alla perfezione, secondo noi, il ruolo di Tony. Questa è una storia vera, tra l'altro, come molte altre della Locanda del Vento. Tony era uno scalpellino veneto, abitava sui Monti Lessini, stiamo parlando della prima metà del Novecento, e un cavapietre, diciamo così. E partì per la Prima Guerra Mondiale e tornò con una scheggia in testa. Da allora in paese lo considerarono un matto. Lui, forse per questa scheggia, forse per questa follia, ma molto più probabilmente secondo noi perché nauseato anche dagli orrori della guerra, si ritirò nei boschi e ampliò la sua casa fino a farla diventare qualcosa di meraviglioso. Costruì tutto da solo, questi enormi blocchi di pietra rosa, come l'arena di Verona proprio, e costruì questa grande casa con delle enormi finestre che davano sulla valle. Quindi un segno d'apertura anche, in un certo senso, nonostante le case di montagna, come voi sapete, hanno le finestre piccole per ragioni termiche. Quindi queste grandi finestre verso la valle, ma verso un sentiero che lui temeva, nessuna finestra, è solo uno spioncino militare, proprio ricavato nella roccia. E lì, proprio da questo, e non solo, ma lui temeva a tal punto che qualcuno arrivasse, che si costruì dei passaggi segreti, dei tunnel sotto la casa che uscivano al di là del prato. Tanto che in paese lo chiamavano Tony che viene fuori dalla terra, no? E quindi lui andava in giro con questo suo tabarro nero, questo cappello, strisciando il bastone lungo la strada. E sta di fatto che, vuoi follia, vuoi preveggenza, qualcuno arrivò veramente da quel sentiero, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando lui era già abbastanza anziano, arrivò una squadra di tedeschi per una retata, proprio per portare via i scalpellini della valle, che erano molto conosciuti, per delle opere militari. E quindi lui cercò di scappare, ma fu ucciso sulla soglia di casa. E quella casa è stata abbandonata per quasi 70 anni, perché è considerata maledetta. E finché un paio d'anni fa dei nostri amici hanno avuto il coraggio di acquistarla e di ristrutturarla, diciamo con amore. E quindi insomma hanno fatto rivivere un po' il sogno di Tony. E questa è la sua storia. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Gentili signore e signori, col vostro permesso vorrei presentarmi in tutto il paese. Mi chiamano Tony e aggiungono il matto. Da giovane ho fatto la guerra, ma non mi ricordo più niente di niente. Rimane soltanto la scheggia che ho in testa, fedele compagna. Avvolto in un nero tabarro, cammino veloce strisciando un bastone che segna una traccia segreta e invisibile per tornare a casa senza perder la strada. Tony è matto, si sa, e in paese più non verrà. Parla col nulla, scava la pietra e fino all'inferno scaverà. Da anni non parlo a nessuno, se non ai miei faggi e al torrente che corre tra i massi. Paziente mi ascolta e non chiede se un folle io sono. la casa io me la son fatta da solo, scegliendo le pietre più dure e lucenti, con grandi finestre che guardano giù nella valle e respirano il sole. Sentiero è la morte che ho visto una notte avvolta in un sogno. Un giorno ci fu una retata, volevan rubarmi e portarmi in miniera, strapparmi alla casa e alla terra, ma io sono scappato, o almeno ci ho provato. Quel giorno lontano che mi hanno sparato, poco prima di chiudere gli occhi ormai stanchi, ricordo di essermi chiesto in fondo: chi è il matto? Radio Sera. Blu Radio Sera. E questa che abbiamo appena ascoltato era la storia di Tony il Matto, a cantarla Giuseppe Festa, leader dei Lingalad. In questa serata stiamo presentando quello che è il nuovo lavoro, che si intitola La Locanda del Vento. I critici, Flavio, recensione che ho letto, hanno giudicato il miglior pezzo dell'album questo pezzo qua. Noi della redazione di Blu Radio Veneto abbiamo giudicato il sogno di Greta, gli occhi di Greta, perdon. Però ci siamo quasi. Diciamo che esattamente non si sapeva dove cosa premiare. Diciamo che premiamo il totale, perché esattamente, è un lavoro un disco molto bello, ben fatto. Tra le altre cose, anche nel 2009 i Lingalad sono arrivati primi anche al concorso di Radio Lifegate del nostro amico Ezio Guaitamacchi. Esatto. Sì, era un concorso al quale appunto si poteva presentare una canzone e anche una canzone in video, e noi abbiamo presentato Il Vecchio Lupo, col video Il Vecchio Lupo e è andata bene. Esattamente. Anche perché lì lui sa scegliere bene, poi essendo anche direttore di Gem, voglio dire, vedi? È stato nostro ospite, seppur solo in maniera telefonica, abbiamo parlato per tutta la sera, praticamente 3 ore di continuo a parlare di dischi e di musica, ma facendo ascoltare solo un paio di pezzi, forse, sì. Maurizio. Sì, abbiamo parlato dei delitti del rock, ti ricordi? Sì, benissimo. Quel libro che ha fatto qualche anno fa, adesso ne ha fatto un altro sui concerti, eccetera. Esatto. Un sacco di libri. Esatto. Esattamente. Allora, ricordiamo ai nostri ascoltatori che la nostra radio si può anche vedere, quindi collegatevi con diretta rockwave.tk per vedere in diretta quello che sta succedendo nel nostro studio, seppur piccolo, ma sempre accogliente. Diciamo che l'acqua la diamo sempre in continuazione, anche perché fa parecchio caldo, a giudicare dalla magliettina mezza manica, insomma. Guarda, mi sono caduti tutti i capelli, hai visto? Mamma mia. Prima una chioma, adesso è vero, perché mi sembrava quando sei entrato qua c'era qualcosa. Vabbè, è proprio l'effetto radio, allora, in questo caso. Maurizio, allora, visto che siamo arrivati, diciamo, a metà del nostro percorso, forse certo, a metà abbondante, sì, cerchiamo di capire anche da Giuseppe, tramite il solito giochino, quali sono stati i suoi, diciamo, influssi, quelli che hanno caratterizzato la vita musicale di Giuseppe, ovvero cosa ti metteresti in una bella valigetta per andare lontano, o diciamo così in quella famosa isola deserta dove ormai ci sono tutti? Allora, sono preparato. Bene. Perché mi hanno fatto la stessa domanda due giorni fa. Vedi, e ci ho pensato tantissimo. Sì. E invece adesso in pochi secondi risponderò. Va bene. Allora, Sade. Perché che sta ancora andando, tra le altre cose. Sta andando e andrà sempre, secondo lo stesso, me. Lo stesso disco di 30 anni fa. Esattamente, attualissimo. Non cessa mai di stupire, voglio dire. Poi, Viaggio senza vento dei Timoria. Come mai hai scelto i Timoria? Timoria perché, innanzitutto li cantavamo. Con Renga. Quando c'era Renga, sì, erano, sì, i Timoria di un certo tipo. Esatto. Sono stati un gruppo di riferimento nostro, nel senso che, sì, poi quando eravamo ragazzini li suonavamo. Certo. No? Quindi, diciamo, mi sono sempre... Sento sotto qualcosa. Sì, c'è un certo smuzzo per dentro. La regia. Che andava a quel tempo, sì. E poi, questi due principalmente, dai. Quindi adesso mi vengono in mente questi qua. Ho focalizzato questi, due generi completamente diversi. Però non hai citato nessuno del folk, diciamo. Abbiamo detto in principio di trasmissione quando ero ragazzino proprio, ascoltavo il maestro Branduardi, quello sicuramente, anche se appunto poi è un suo genere un po' particolare. Però ecco, questi sono... Poi io non ascolto tantissima musica, questo forse... è un difetto, non lo so, però gli altri sono molto più preparati da questo punto di vista, cioè ascoltano molto molto di più. Io non ho molto tempo per ascoltare la musica, ma preferisco magari farla, ecco, ma così. Mi avete colto un po'. Bene. Ecco, non si è sposata bene il missaggio tra Smuto Peretto e Masade, però vediamo, sentiamo anche Angelo Branduardi. Adesso lo sentiamo in sottofondo alla fiera. Che abbiamo conosciuto, tra l'altro, a Bruxelles ad un concerto. Con tutti i suoi capelli. Sì. Con tutti i suoi capelli, mannaggia lui. Ne è ancora tardi. Che non sai come non faccia ad intripparsi col violino, con i capelli, perché... Non lo so, è un personaggio comunque. Sì, sì, sì. E esce il disco il 30 marzo, il nuovo disco di Branduardi. Ah sì? Non sì, lo sapevo. Di Bene. Cui è un 6 pezzi, di cui un pezzo riprende un pezzo di Elvis Costello, fatto da lui, e altri 4 pezzi inediti. Ho sentito le voci, ma dovrebbe uscire il 30 marzo, tra il 29 e il 30 marzo, come Vasco. Vasco esce il 29, Branduardi il 30. Benissimo, okay. E noi li aspettiamo entrambi. Esattamente. Bene, allora, visto che hai la chitarra ancora imbracciata, sì, un paio di pezzi, uno dietro l'altro, così tanto Allora, un omaggio anche così agli amanti di Tolkien, perché ne abbiamo parlato tanto, sì, quindi un po' un brano che è il manifesto del Signore degli Anelli. E poi subito l'Ingalad, che è invece il nostro manifesto, come abbiamo detto all'inizio. Tre anelli era degli elfi sotto il cielo che risplende, sette principi dei nani nelle loro rocche di pietra, nove agli uomini mortali che la triste morte attende, uno per l'oscuro sire chiuso nella torre nera. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella terra di Mordor dove l'ombra cupa scende, nella terra di Mordor dove l'ombra cupa scende. Era degli elfi sotto il cielo che risplende, sette i principi dei nani nelle loro rocche di pietra, nove gli uomini mortali che la triste morte attende, uno per l'oscuro sire chiuso nella torre nera. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Un anello per domarli, un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nel buio incatenarli. Nella terra di Mordor dove l'ombra cupa scende, nella terra di Mordor dove l'ombra cupa scende. Ho dormito sotto le stelle, ho viaggiato per giorni e giorni tra immense foreste e brughiere deserte. Ho dormito sotto le stelle ai piedi di grandi abeti, ho acceso fuochi sotto i raggi della luna crescente. Ed ora sono qui, in questa conca scura, sotto rami imponenti, accanto ad una fonte che dicono magica, qui troverò forse il senso a una vita fuggente. Ma il silenzio che mi inonda la mente lascia il posto a delle voci sommesse che si fondono in un solo respiro sulla pelle come mille carezze. Il vento tra noi, lo sai, porterà strane parole, nuove realtà. Il vento che poi tra noi si alzerà, musica diventa già. Sono avvolto da un velo di strane visioni ed immagini vaghe e porto dentro al cuore la forza di un sogno nato tra le ombre di un bosco e la vita reale. E il cammino che mi aspetta domani sarà forse su una strada diversa, ma la via che mi appare ormai chiara, ora so che non sarà mai più persa. Il vento tra noi, lo sai, porterà strane parole, nuove realtà. È il vento che poi tra noi si alzerà, musica diventa già. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. E abbiamo ascoltato due pezzi di fila di Lingalad, sì. Qui con noi all'interno di Blu Radio Veneto nella programmazione serale. Abbiamo Giuseppe Festa, ancora benvenuto nei nostri studi, Giuseppe. Grazie, tra il primo e il secondo quasi cado dalla seggiola, quindi è stato un attimo. Abbiamo sentito un momento, ma... diciamo, ecco, era rumore, ecco, sì. Diciamo della quasi caduta. Ma anche il cadere della sedia è tutto dal vivo, è assolutamente live. Magari anche l'arrivo delle sirene, esatto, dell'ambulanza. Speriamo di no, quello sì, assolutamente. Si può creare un'atmosfera, sì, tutto dal vivo. Benissimo, allora Giuseppe, ancora grazie per essere qui con noi. Abbiamo ancora una buona mezz'ora da passare insieme con la tua musica. Ricordiamo ancora una volta quello che è il sito internet, da dove si possono recuperare molte informazioni oltre quelle che stiamo passando in questa serata, è www.lingalad.it. Tra l'altro sul sito, come dicevo prima, si possono trovare le date dei concerti e il prossimo è a Conegliano e suoneremo domenica 20 e, presso il locale Golden Radio. E lì appunto ci sarà anche ospite Davide Camerin, quindi diciamo suonerà con noi Tony il Matto. Bene, allora prima tu dicevi a proposito di locali, questa cosa qua, di menù, lo Hobbit, altre cose, vogliamo, mi hai messo proprio una curiosità in principio, anzi quasi l'acquolina in bocca, anche se diciamo che la cena era stata fatta poco prima di venire qua. Allora, pensate che c'è una scrittrice che si chiama Luisa Vassallo, che è andata a leggere a fondo Il Signore degli Anelli e ha ricavato una serie di ricette della Terra di Mezzo, anche se poi non vengono magari specificate perfettamente nel libro. Con un po' di fantasia e un po' anche di rigore filologico, enogastronomico, come volete, ha ricostruito queste ricette e le ha scritte appunto le ha raccolte in un libro. Quindi spesso succede che magari dei ristoratori vogliono fare una serata a Hobbit e più di una volta, un paio di volte almeno, ci è capitato proprio di essere invitati in queste occasioni e quindi di suonare e mangiare molto. Se poi vuoi sapere esattamente, diciamo, un piatto tipico, ci devo pensare un attimo, quindi magari... Nel prossimo intervento. Nel prossimo intervento possiamo dare la ricetta, magari dopo aver ascoltato anche un pezzo, tanto per prendere fiato, un pezzo da quello che è un altro disco che ci hai dato questa sera. Allora, sì, mi piacerebbe far ascoltare Il Vecchio Lupo, che è un brano contenuto nell'album Lo Spirito delle Foglie, nel quale abbiamo immaginato le riflessioni di alcuni elementi naturali, e tra i quali anche appunto un vecchio lupo piuttosto che un'aquila, piuttosto che un bosco di betulle o una montagna, quindi anche esseri inanimati, diciamo, che però hanno secondo noi un loro spirito. Adesso sulla traccia, adesso non la numero 5 mi sembra, sì. La numero 5 della raccolta, sì, giusto? Esattamente, raccolta. Benissimo, allora l'ascoltiamo e poi torniamo qui in diretta. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Aspetto il sole che mi scalderà le ossa. Non ricordo quanti inverni sono già passati da quando nella valle rincorrevo il grande cervo e rivedo negli steli d'erba che si azzuffano al vento i cuccioli del mio branco che giocavano un tempo. Ma quando si fa buio e il nemico si addormenta, la valle e attraverso la foresta vado al fiume dove l'aria sa di muschio ed umida la terra, ma di orme non trovo traccia. Il branco si è perso, e anche se sarò l'ultimo, canterò. Blu Radio Veneto. Blu Radio Sera. Blu Radio Sera. Ed eccoci qua ancora a parlare con Giuseppe Festa, l'Ingalad, la locanda del vento, ma in questo caso non solo la locanda del vento. Giuseppe, volevo chiederti una cosa. In concerto, l'Ingalad è il vostro manifesto. Come lo fate in concerto? Direttamente acustico o leggermente più elettrico? No, allora abbiamo tutti strumenti acustici, nel senso che non abbiamo la chitarra elettrica, sì. Diciamo, quindi tutti strumenti folk, però suonati comunque con una base di batterie basso, quindi soprattutto negli ultimi anni, poi con un po' anche un cambiamento nella nostra direzione artistica, cioè direzione nel senso dove stavamo andando, i pezzi sono diventati un po' più folk rock, e quindi anche Giorgio, che all'inizio il nostro batterista, quando l'abbiamo coinvolto in questo progetto, gli abbiamo detto: mi raccomando, poche cose, spazzole. aveva dei campanellini, sì. E due tamburelli, no, praticamente, quindi lui anche perché lui non era abituato ai concerti con molto silenzio, no, perché fino a quel punto c'era sempre la baraonda dei locali o cose del genere. Invece qui l'Ingalad, ovviamente la proposta era diversa, all'inizio era o in chiese sconsacrate, o in biblioteche, o in castelli, quindi in cose, situazioni molto particolari. E quindi, però poi pian piano, no, ha cominciato: ma io porterei delle congas. Vabbè. Poi a un certo punto ho una cassa, piccola però, no, alla fine è arrivato anche con, come si chiama, il gong, quello, quindi adesso c'è la batteria completa finalmente, per grande gioia anche di Fabio, che è il bassista, quindi insomma, il concerto è appunto un alternarsi di momenti molto acustici, quindi molto soft, con momenti anche così più energici, più vivaci. Ci sono anche momenti sperimentali all'interno dei concerti oppure... Allora, gli unici momenti sperimentali sono le improvvisazioni che fa il nostro Claudio Morlotti, però sono improvvisazioni che ci spiazzano molto spesso, quindi ci preoccupa sempre tantissimo. No, a parte scherzi, no, non ci sono tante improvvisazioni, tendiamo ad essere molto metodici nel preparare il concerto. Lasciamo molto allora, spesso lasciamo spazio ai racconti, quindi tendiamo a introdurre i vari brani con una piccola introduzione parlata, e quello però appunto dipende dalla situazione, perché se il pubblico è attento e ha voglia di ascoltare, allora è anche un piacere magari non dilungarsi troppo, ma dire due parole, altrimenti via, si suona e si fa casino. Ho mostrato a Flavio adesso le poche chitarre a Claudio Morlotti. Sì, è un personaggio così. Sul nostro sito si può trovare, ha una 20-30 strumenti, è un collezionista di strumenti un po' da tutto il mondo, e poi diciamo ovviamente non può suonarli tutti in concerto, grazie al cielo. Anche perché già con tre si incasina, perché attacca sempre il jack sbagliato, però in studio danno molto, perché certo. Non lo so, il banjo piuttosto che il buzuki, il dulcimer, danno quelle sonorità che non si trovano spesso nei gruppi italiani. Sì, poi stanno nelle valigette piccole, quindi quelli sì. Benissimo, anche perché a lui sicuramente manca il personaggio del backstage che gli porta dentro la chitarra. Assolutamente. No, ci vorrebbe un personaggio che portasse dentro lui più che altro. Spesso si perde. Cioè, Claudio è un mito per noi, è un artista veramente al 100%, però come tutti gli artisti è anche un po' sulle nuvole. Lui è molto alto e noi spesso diciamo che lui è sopra le nuvole proprio, dalla sua altezza. Si quindi perde. Cerchiamo un badante per lui a questo punto. No, sì. Claudio, sei un grande. Lo salutiamo perché sicuramente ci sta guardando. Anche se è un tifoso dell'Inter, quindi io non so, stasera mi ha detto, devo vedere la partita. Sto sentendo la partita, guardando la partita. Beh, insomma, i gol che prendono poi si possono anche vedere sui telegiornali. Certo, anche dopo. Ok, allora abbiamo ancora 14 minuti a stare insieme. E ancora un altro pezzo. Facciamo ancora chitarra o un altro pezzo da disco? Allora, facciamo magari un altro pezzo dal disco e poi disco con un altro dal vivo. A me piacerebbe, proporre Il volo dell'aquila, che è sempre tratto dallo spirito delle foglie ed è ispirato ad un fatto vero. Vi raccontavo prima che io e il bassista Fabio abbiamo avuto questa esperienza molto bella al Parco d'Abruzzo, e lì è un po' si aiuta un po' il lavoro dei guardaparco, e in quell'occasione ci hanno mandato in una piccola baita a tenere d'occhio un nido d'aquila. Sembra una cosa un po' originale, però in quel periodo c'erano dei bracconieri che erano degli abili rocciatori e andavano a portare via i cuccioli, praticamente i pulcini delle aquile o degli altri rapaci, per poi venderli nei mercati esteri ai falconieri. E quindi a turno, visto che purtroppo ancora oggi i guardaparco nei nostri parchi sono risicati, spesso i volontari aiutano, e siamo stati una settimana a più di 2000 metri d'altezza, ed è stato faticoso sicuramente, provante, ma questa esperienza ci ha regalato il primo volo dell'aquila. Quindi questo aquilotto che a un certo punto si è buttato nel vuoto, era un nido a strapiombo proprio sulla valle, e seguendo la madre ha fatto questo lungo cerchio nell'aria, e poi chissà come è riuscito a ritornare incolume al suo nido, e ci ha fatto molto riflettere. Un po' l'abbiamo anche invidiato, no? nella sua capacità di buttarsi, di volare. Blu Radio Sera. Aggrappato a questo grigio balcone sul vuoto, grandi ali coprono il cielo, rapide volano e resto da solo. corrono i giorni e non tornano, rapite dai venti in cerca di prede, passano le lune e guardo la valle, l'aria che sfiora le giovani ali, l'aria che sfiora le giovani ali, tramontano i soli e sembran stagioni, la nebbia nasconde le pette, strani suoni salgono dal filtro del bosco ed animano il mio stanco sonno, rapito dai sogni in cerca del vento, scendo in picchiata in sorvolo la valle, l'aria che sfiora le giovani ali, l'aria che sfiora le giovani ali. Radio Sera. Ed eccoci qua, un altro pezzo di Lingalad, anche questo non dalla locanda del vento che abbiamo imparato a conoscere nel corso della trasmissione, che è anche il nuovo lavoro di Lingalad, ma da quale dei titoli che possiamo consultare anche in internet? Lo spirito delle foglie. Bene, allora lo spirito delle foglie. Ricordiamo anche come possono fare i nostri ascoltatori per entrare in possesso di un disco Lingalad. Allora, beh, o venire ai nostri concerti, però questo ovviamente non lo possono fare tutti. E allora, dunque, per quanto riguarda l'ultimo, quindi La Locanda del Vento, si può acquistare o dal nostro sito internet o da quello della Lizard, oppure ordinarlo nei negozi di dischi. Per quanto riguarda invece i nostri album precedenti, quelli si possono ordinare direttamente dal nostro sito, arriverà a casa un pacchetto anonimo, così almeno i vostri vicini non sanno che ascoltate Lingalad, altrimenti che vergogna. Ma tenete aperte le finestre. e quindi sì. È questo, diciamo, in maniera molto semplice, basta mandare il proprio indirizzo, l'ordine e poi arriva il pacchetto a casa. E poi tra altre cose, sempre sul vostro sito c'è anche la possibilità di ascoltare alcuni pezzi in anteprima, tanto per capire più da vicino quello che è l'argomento Lingalad. Esatto. E ci sono anche alcuni filmati all'interno sempre di questo grande mondo internettiano, dove si possono ascoltare anche le vostre musiche. Sì, anche perché abbiamo la fortuna di aver collaborato per tanti anni con la Filmmaker di Mantova, due fratelli, Massimo e Francesco Piccioli, che hanno appunto questo studio di registrazione e di realizzazione video e che appunto hanno realizzato molto materiale sulla nostra musica, e quindi anche questo su YouTube si può trovare. MySpace, c'è anche un vostro indirizzo su MySpace. Esatto. E tra altre cose, così curiosando, perché noi da buoni ascoltatori di musica curiosiamo anche per riuscire a fare qualche domanda in più ai nostri ospiti, c'è anche un pezzo che non mi sarei mai aspettato. C'è un pezzo dei Beatles. Ah, sì, sì, è vero, sì. Me l'ero dimenticata, avevo rimosso. Come mai questo pezzo che è She Loves You? No, sì, She Loves You. Allora, nel 2006, quando siamo tornati in Canada a suonare, siamo stati ospiti di una radio canadese, la radio dell'Università di Toronto. E prima di andare là ci avevano chiesto di così, se volevamo partecipare a una compilation di gruppi un po' che venivano un po' da tutto il mondo e reinterpretare un pezzo dei Beatles. E quindi noi l'abbiamo fatto un po' a nostro modo e sul nostro sito si può anche, anzi sul MySpace, sul nostro sito non credo che ci sia, sul MySpace, no, si sul può, MySpace. Sul MySpace si può ascoltare e quindi insomma è stata una bella esperienza anche quella, perché poi abbiamo suonato anche la... abbiamo fatto un concerto in un locale, il Transa Club di Toronto, trasmesso in diretta dalla radio universitaria, una bella realtà decisamente, perché una radio finanziata dagli stessi studenti, che è veramente un punto di riferimento là, quindi una realtà indipendente che qua a quei livelli, quindi diciamo con milioni e milioni di ascoltatori, penso sia impossibile in quest'ottica, perché appunto c'è molta più attenzione rispetto ai vari tipi di musica. Noi siamo stati ospiti, la settimana dopo c'era Lorena McKenny, voglio dire, quindi non hanno, non si pongono problemi, non hanno, non li spaventa che un gruppo sia autoprodotto, indipendente, sconosciuto, conosciuto. Se apprezzano il prodotto lo passano, e questa è una cosa difficile da trovare, anzi impossibile da trovare in Italia, se no in realtà come la vostra, anzi approfitto per ringraziarvi per lo spazio che ci avete dato, tra l'altro in un'atmosfera molto familiare che concilia due chiacchiere. La prossima volta veniamo anche con i cibi Hobbit, così rendiamo ancora più, esatto. più bella. Ti è piaciuta questa qua dei cibi Hobbit? Molto. mi avevi promesso in finale una ricetta. Te la mando via email e poi la mettiamo sul sito. Vabbè, benissimo. Allora, per concludere, visto che mancano pochi minuti, Giuseppe, ci hai promesso... due pezzi, uno lo facciamo subito, sì. E poi torniamo solo per i saluti, proprio il tempo tecnico per ringraziarti, e poi un pezzo finale che ci vuole. Va cosa bene. Scegliamo? Allora, scegliamo un brano dedicato a un personaggio che noi amiamo molto, che è nel libro Signore degli Anelli ed è Tom Bombadil, ma non è nel film di Peter Jackson, per fortuna, perché in questo modo è rimasto immacolato nella sua magia e quindi nella nostra mente. Tom Bombadil è un tipo assai allegro, porta stivali gialli e una giacca blu cielo. Nessuno l'ha mai preso perché egli è il messere, potenti i suoi canti, veloce il suo piede. Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Ai piedi della collina il vento soffia leggero, veloci passi mi portano a casa, agili come un pensiero. Sulla soglia aspetta al debole lume la mia dolce dama, la figlia del fiume. Salice risalite, Tom corre avanti, le candele accende, già cala il sole, la notte vi attende. Giunte le ombre, la nostra porta aprite, dai vetri e le finestre la luce si intravede. Non temete i neri ontani, salici canuti, presto venite, vi aspetterem seduti. Nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai, nai. Veloci piccoli miei, che al sino salice risalite, Tom corre avanti, le candele accende, già cala il sole, la notte vi attende. Giunte le ombre, la nostra porta aprite, dai vetri e le finestre la luce si intravede. Non temete i neri ontani, salici canuti, presto venite, vi aspetteremo seduti. Bellissima, una ballad un po' francese, secondo me, molto folk, molto delicata, molto delicata, era proprio, doveva essere così in ogni caso. Oui. Esattamente. Benissimo, allora ringraziamo Giuseppe Festa, leader dei Lingalad, di essere stato qui con noi in questa serata, ad averci così permesso di aprire la porta, oltre che il cofanetto che contiene il CD, in questa locanda del vento che ci ha ospitato e ci ha fatto conoscere le prelibatezze all'interno. Anzi, queste prelibatezze, sì, no, è così, non mi va via adesso, non mi va via. Se prima non mangio qualcosa, magari vado alla macchinetta fuori. Vabbè, allora, Maurizio, breve accenno sugli ospiti di domani sera. Sì, domani sera avremo un gruppo che si chiama Pal Non Punches, produrrà musica tra il rock e il blues, quindi un gruppo abbastanza tosto, però verranno con due chitarre acustiche, quindi il rock in versione acustica stavolta, molto interessante. Giovedì festa, ma noi trasmettiamo lo stesso, quindi abbiamo gli Horizon by la capitale, vengono da Roma gli Horizon, un rock pop, quel genere là, praticamente. Quindi mercoledì e giovedì sempre dal vivo, sempre nei nostri studi. Quindi mercoledì, ricordiamo, dopo le 22 all'interno di Rock Wave nella versione live, mentre il giovedì sera sempre alle 21 con Agostino Spolavore. Esattamente. Benissimo, allora c'è lo spazio per un'ultima canzone che Giuseppe vuole dedicare a tutto lo staff di Blu Radio Veneto. Senz'altro. E anche agli ascoltatori, grazie. Agli ascoltatori. Ce lo siamo dedicati sì, noi. Sì, no, veramente grazie per lo spazio e per la bella chiacchierata, insomma. E questo brano è proprio dedicato a chi ama viaggiare, è anche un augurio, in viaggio ancora. Bene, allora noi vi salutiamo da parte di Flavio Bilato e Maurizio Calzavara. È proprio tutto, buona serata, vi lasciamo ancora con Giuseppe Festa, Lingalad, La Locanda del Vento, tante cose, tanto fantasy. Orizzonti ormai persi nel tempo, raggiungo e sorpasso i miei anni, le ere del mondo quasi si sfiorano e rivedo nel sole i miei sogni, cullato nel sonno da parole d'acqua, la fresca neve di seta al mio corpo e la volpe che osserva dal basso il lento passaggio del nibbio, mi chiama ad un nuovo viaggio, ancora in viaggio, ancora in viaggio, ancora in viaggio, ancora. Sussurrano lievi gli abeti sul colle, scolpiti dal vento incessante, il respiro del monte su questo sentiero fa il mio passo meno pesante. I candidi raggi tra i tronchi imponenti rischiarano la gelida notte e vedo piccole stelle di fuoco che salgono al cielo, chiamate ad un nuovo viaggio, ancora in viaggio, ancora in viaggio, ancora in viaggio, ancora. E sento tra i faggi che crescono attorno allo stagno del vecchio lupo il richiamo che ora portato dal vento mi appare fratello e compagno. Forse metà di questo cammino, forse solo di un altro respiro per lasciarsi alle spalle il villaggio e iniziare il mio viaggio, ancora in viaggio, ancora